Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. E andremo avanti da adesso alle ore 21:30, ma prima andiamo con quella che è la sigla di questo programma. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. Un'altra cosa che magari solitamente facciamo alla fine, vi ricordo i nostri contatti che sono per la posta elettronica liberetutti@autistiche.org, e oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. E inoltre vi ricordo che questa, diciamo, puntata di Zardins Magnetics, ma anche tutte quelle avvenute nelle settimane, nei mesi scorsi, potete sempre riascoltarlo riascoltare andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, un'altra cosa che diciamo oggi volevo dirvi io. Insomma, qui nella trasmissione vi diciamo che domani c'è un'iniziativa a Udine, ci sarà la presentazione di un libro nello spazio autogestito in via De Rubeis 43 qui a Udine. Alle ore 19:30 ci sarà un buffet vegan, insomma, e all'incirca alle ore 21 ci sarà questa presentazione del libro, iniziativa comunque curata da Laboratoria Trans Femmes Queer di Udine. E vabbè, il libro è praticamente cosiddetto tra virgolette quello dei Raff Punk, viene ormai denominato così. Comunque si intitola Schiavi nella città più libera del mondo, che è stato scritto da Laura Carroli. E che altro dire, a parte che adesso ascolteremo due brani dei Raff Punk da un 7 pollici, anzi credo sia l'unica registrazione effettuata nella storia da questi Raff Punk, da quello che così a memoria, insomma, poi ci sarà ben, saranno ben uscite degli inediti o forse qualche altra, che ne so, qualche compilation. Comunque, al di là di quello, proprio dal, cioè, il titolo del libro non è altro che il disco che uscì all'epoca nell'82, che si intitolava proprio Schiavi nella città più libera del mondo, ed era stata realizzata dalla Attack Punk Records, che non era altro che questa etichetta creata dai Raff Punk, e che appunto all'interno di questo di questa prima uscita c'erano ben 4 band sempre di Bologna. C'era le Anna Falks, Bacteria e Stalag 17, ovviamente oltre ai Raff Punk. E poi ne fece uscire altre di queste compilation, tutte completamente autoprodotte e proprio fatte con maniera classica da fotocopiatrice, che per l'epoca era praticamente, cioè più che fotocopiatrice, è state serigrafate, magari che all'epoca è una cosa proprio una novità assoluta, e comunque ancora di più all'interno della narcopunk. E poi Raff Punk e l'Attack Punk Records fece uscire, insomma, anche divenne più conosciuta perché fece uscire il primo disco e forse anche il secondo dei CCCP, che poi insomma divenne un gruppo molto conosciuto e molto commerciale, direi a livello internazionale. Allora andiamo all'ascolto di queste Raff Punk, e soprattutto l'appuntamento che vi ho detto prima del libro di Laura Carroli, che comunque, se volete saperlo, all'epoca suonava la batteria nei Raff Punk, però si faceva chiamare Mala Testa. Allora andiamo all'ascolto dei Raff Punk. Bertino partigiano, viva la resistenza! Thank you.

Beh, intanto per ribadire qual è la posizione delle anarchiche e degli anarchici rispetto alla questione Tinelli Calabresi, e poi perché il 18 maggio scorso, quindi qualche giorno fa, cadevano i 50 anni dalla morte di Calabresi, e in questa occasione, per ricordare insomma questo fatto, ci sono state diverse prese di posizione, diversi articoli partendo da questo fatto sono arrivati poi a parlare di giustizia riparativa. Mi riferisco nello specifico, e vi leggerò, in modo che quello che dico è letteralmente quello che ha detto la ministra Marta Cartabia, e c'è questo articolo che appunto la ministra Marta Cartabia ha scritto in prima persona con l'io, che si intitola "Senza verità non ci può essere riconciliazione". È un articolo apparso sul giornale, sul quotidiano La Stampa, appunto il 18 maggio 2022. Insomma, ci dice la ministra che io, dalla famiglia Calabresi, da Gemma e Mario in particolare, ho imparato il mestiere che sto svolgendo ora. Ho imparato qual era l'idea di giustizia che avrei voluto portare avanti. Ho imparato a mettere a fuoco quale fosse il volto della giustizia per cui avrei voluto lavorare da ministra. Poi Marta Cartabia ci dice che, e continua a leggere, protagonista di un momento di svolta, e cioè il 28 aprile 2021, quando la Francia, dopo insistenti richieste sull'estradizione degli italiani condannati per reati di terrorismo e riparati a Parigi, dispose con una certa sorpresa di consentire alla giustizia di fare il suo corso per esaminare quelle richieste di estradizione, un processo di estradizione che, ci ricorda Cartabia, era stato bloccato per decenni in nome della dottrina Mitterrand, secondo cui quelle erano state condanne per idee politiche e non per aver commesso reati. Allora ci dice la ministra, attuale ministra della giustizia, quell'interpretazione, cioè che considerava i reati politici, le condanne seguite ai reati politici, delle condanne per idee politiche e non per aver commesso reati, ci dice Cartabia, quell'interpretazione screditava le istituzioni italiane, il lavoro della nostra magistratura, ma soprattutto offendeva le vittime e il loro dolore. Perciò, quando insediata al governo ribadì senza esitazione la nostra richiesta di estradizione, venni vista così un po' male, ma ci dice la ministra, non è sete di vendetta che mi anima, ma sete di chiarezza e sete di reale possibilità di riconciliazione, perché non ci può essere riconciliazione senza verità. E poi viene a parlare appunto delle riforme a cui sta lavorando questo governo e tira in ballo la riforma della giustizia riparativa. Ci dice Marta Cartabia, metterà in luce fino in fondo tutti gli aspetti della verità. Il compito della giustizia e dei tribunali credo che risponda essenzialmente a questo bisogno di verità che hanno innanzitutto le vittime e tutta la collettività. Allora, di fronte a questa cosa, riflettendo non come addetti ai lavori ma come anarchiche e anarchici, ci viene da dire, ma ad esempio relativamente a Pinelli, lo Stato che cosa pensa? Che Pinelli è o non è un assassinato dallo Stato per tramite di Calabresi e dei suoi scagnozzi, e quindi per tramite dei suoi funzionari, visto che non viene nominato in tutto questo? E poi continuiamo a parlare di giustizia riparativa. Allora, per chi ha visto le anticipazioni, abbiamo intitolato questo punto, diciamo, di discussione, ridurre la libertà per ampliarla, l'ossimoro autoritario della cosiddetta giustizia riparativa. Allora, perché abbiamo scritto questo, ridurre la libertà per ampliarla? Perché questo è praticamente il titolo di un convegno che si è tenuto presso il Senato della Repubblica ieri, mercoledì 25 maggio, dove erano presenti sempre Marta Cartabia, ministra della giustizia, e poi Carlo Renoldi, che praticamente è il capo del dipartimento penitenziario. E però, oltre a queste due figure istituzionali, c'era anche un gruppo Dunque, che si chiama Gruppo della Trasgressione, che è composto da detenuti, ex detenuti, familiari di vittime di reato, studenti universitari e comuni cittadini. Anche qui vado a leggere, c'era questo articolo, compariva sul Riformista, mi sembra. I detenuti ed ex detenuti del Gruppo della Trasgressione provenienti dalle case di reclusione di Milano Opera e Bollate, con le testimonianze del loro ingresso nella devianza, e stiamo bene attenti alle parole che vengono utilizzate, e del lungo percorso per uscirne, si interrogano con le figure istituzionali presenti su strumenti per rendere la pena una palestra di coscienza e responsabilità, il rapporto tra genitori detenuti e figli e iniziative utili a prevenire la devianza di seconda generazione. Gli obiettivi di questo convegno super istituzionale, visto che si è tenuto al Senato, ha tra l'altro ribadivano che era la prima volta, per la prima volta dei detenuti e degli ex detenuti entrano al Senato. E gli obiettivi appunto di questo convegno erano quelli di creare un centro di studi e un laboratorio permanente nel quale i detenuti con un lungo e comprovato percorso di recupero collaborino attivamente con studiosi della materia e operatori penitenziari per combattere e prevenire la devianza. E vabbè, e poi ieri il 25 di maggio era una giornata particolare e importante anche per noi anarchici e anarchici, ma di questo dirò dopo. E vengono in mente, sentendo queste, cioè leggendo queste cose, vengono così in mente alcune cose, alcuni pensieri. Beh, intanto ovviamente la giustizia riparativa non mette in discussione il monopolio della violenza che è dello Stato, cioè quindi c'è una, ovviamente Stato e soggettività non sono in una situazione di parità. Il monopolio della violenza è detenuto dallo Stato, le soggettività non hanno nessuna garanzia da questo punto di vista, non viene riconosciuta, diciamo, un altro esercizio di violenza che non è quella dello Stato. Poi, in base a questi discorsi, abbastanza fumosi peraltro e mistificatori, sembra che il diritto positivo, cioè le leggi che lo Stato si dà per autoconservarsi, sia una sorta di diritto naturale, ma così non è. I reati infatti non sono, cioè un reato non è una cosa naturale, un reato è stabilito dallo Stato, come si diceva, per la sua conservazione, e infatti i reati cambiano storicamente, così come anche cambiano le pene che vi sono associate. Inoltre, in tutto questo discorso sulla giustizia riparativa e sulla riconciliazione, non riusciamo a capire quale possa essere la riconciliazione, e soprattutto le vittime, la parte lesa, chi sono? La parte lesa è sempre lo Stato o i rappresentanti dello Stato, perché appunto Pinelli quindi non è una parte lesa, assassinato dallo Stato, ma non è una parte lesa. Ma per restare a esempi più piccoli, diciamo, meno eclatanti, beh, avrete letto, insomma, saprete che gli studenti che a Torino hanno manifestato qualche mese fa contro l'alternanza scuola-lavoro, con tutta la scia di morti ammazzati da questo dispositivo, che è un dispositivo legale, quindi stabilito dallo Stato, e appunto gli studenti che hanno protestato, che hanno osato protestare contro questo dispositivo assassino, visto che molti ragazzi sono morti e recentemente, anche qualche giorno fa, un ulteriore ragazzo a Bolzano, questi studenti sono stati arrestati o ristretti ai domiciliari o all'obbligo di firma per aver manifestato. E ecco, qual è il reato che questi ragazzi hanno commesso, ad esempio? E chi sono le vittime in questo caso? E poi andiamo avanti ancora. Torino, carcere Lo Russo e Cotugno, 22 guardie penitenziarie e il direttore indagati per violenze sui detenuti. Però il maxi processo va a luglio 2023 perché non è considerato urgente. Quindi non valgono niente le persone che sono state torturate e maltrattate all'interno del carcere e che non potevano difendersi. E ancora, i 14 morti ammazzati dallo Stato durante le rivolte carcerarie del marzo 2020. Per loro, quale giustizia riparativa è possibile? Chi li riconosce come soggetti violati? Chi vede il loro dolore e la loro distruzione? E ancora, ex Ilva di Taranto, così random, perché ci sono continuamente vengono fuori cose, quindi è quello che poi si legge evoca ulteriore riflessione. Ilva di Taranto, oggi Acciaieria Italia. La polvere rossa che copre tutto, soprattutto quando c'è vento, è diossina. L'Agent Orange, appunto, che gli americani hanno buttato sul Vietnam, che resisteva e che veniva prodotta segretamente anche a Seveso, ne abbiamo parlato poco tempo fa con la Nicoletta Poidimani, proprio qua a Udine, anche a Trieste. Allora, spargere diossina sulla popolazione non costituisce reato, evidentemente, visto che il governo Draghi raddoppia la produzione da 4 a 8 milioni di tonnellate di produzione, appunto, per le stesse acciaierie. E ancora, quali sono le vittime, la parte lesa di Ansaldo Nucleare? Chi sono? Visto che Ansaldo Nucleare esporta le tecnologie del nucleare civile, ma lasciamo perdere, perché sappiamo che per riguardo al nucleare, tra il civile e il militare la linea di confine è molto labile, e comunque anche il nucleare civile è allucinante. Comunque, visto che Ansaldo Nucleare esporta le sue tecnologie, in quanto in Italia c'è stato un referendum, ma quali sono le persone, i soggetti che subiscono e subiranno le conseguenze nefaste delle azioni di Ansaldo Nucleare, quindi degli insediamenti di centrali nucleari? Ecco, vengono in mente un po' tutte queste cose. E, ecco, boh, niente, magari vediamo se vale la pena di dire qualcos'altro. Intanto magari mandiamo un pezzo, in modo che creiamo uno stacco per poi parlare di altre cose che sono successe ieri, appunto 25 maggio. We'll be right back. Sì, allora intanto questi due ultimi pezzi che avete ascoltato sono della band Stato di Polizia e appropriati rispetto all'argomento di cui stavamo parlando. Allora, dicevamo 25 maggio 2022, cioè ieri, è una giornata particolare in quanto ieri si è svolta l'udienza di Cassazione del processo Scriptamanent. E già in precedenti puntate di Zernis Magnetics abbiamo dato notizia, insomma, di quello che sta succedendo in particolar modo in questo momento ad Alfredo Cospito, e cioè il fatto che gli è stato dato il 41 bis. Già abbiamo espresso la solidarietà, insomma, e letto vari comunicati di movimento. E vale la pena di dare un aggiornamento su questa udienza di Cassazione. Il procuratore generale si è espresso per il rigetto di tutte le richieste, sia dell'accusa che della difesa, ad eccezione del reato di strage, per il quale ha chiesto un rinvio in corte d'appello per la riqualificazione da strage comune a strage politica. L'udienza è aggiornata al 27 giugno, quando ci saranno le ultime arringhe difensive e la sentenza definitiva. Dico solo due cose sull'operazione Scriptamanent. Ricordo che Anna Beniamino è condannata a 16 anni e 6 mesi, Alfredo a 20 anni, Nicola 13 mesi, Marco 21 mesi. Tra i reati c'è quello di strage, come appunto anche il procuratore generale appunto nomina questo reato, parlando di riqualificazione da strage comune a strage politica. Questo discorso di affibbiare agli anarchici appunto i reati di strage fa parte della politica dell'inversione della responsabilità, proprio quando nella realtà concreta e quotidiana è lo Stato che ogni giorno commette stragi impunite nelle guerre, nelle carceri, nei mari, sul lavoro, nell'alternanza scuola-lavoro, nelle strade, eccetera, in una costante pratica affermata del monopolio della violenza. Proprio in questa situazione reale e oggettiva si attua questa politica dell'inversione delle responsabilità, e lo si fa per infamare e anche mostrizzare le anarchiche, gli anarchici e in generale i rivoluzionari. E vabbè. Allora, abbiamo detto che Alfredo Cospito, che era detenuto in alta sicurezza a Terni dal 5 di maggio, gli è stato dato il 41 bis, e il 41 bis viene firmato dalla Ministra di Giustizia, quindi è stato firmato da Marta Cartabia, che scusate, è la promotrice della giustizia riparativa. Allora, che cosa dire del 41 bis? Ne abbiamo parlato altre volte, abbiamo fatto diversi presidi, manifestazioni contro il 41 bis. Allora, vale la pena di ricordare che dal 92 viene applicato in maniera scientifica. E esisteva già da prima, ma dal 92 viene proprio applicato, e viene applicato prevalentemente all'inizio alla mafia, diciamo ai reati di mafia, e viene utilizzato per combattere questa organizzazione, e in realtà ha una funzione di repressione sociale molto forte in generale sulle popolazioni del sud. È un sistema di carcere duro, un sistema carcerario di carcere duro che tende alla deumanizzazione del prigioniero. Ricordiamo che per uscire dal 41 bis devi accettare di mettere qualcun altro al tuo posto, e quindi devi infamare qualcuno. Il 41 bis viene rinnovato ogni 4 anni e poi ogni 2 anni. E viene esteso subito ai reati politici. Ricordiamo che ci sono tre prigionieri rivoluzionari delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, Lioce, Morandi e Mezzasalma, che stanno scontando il 41 bis da circa 20 anni. E, allora, è un regime esterno alle sezioni speciali, e praticamente è in mano completamente ai reparti, alle squadrette del GOM, e non solo, fino a poco tempo fa era solo per la sicurezza in mano al GOM, ora invece è in mano al GOM per tutto, anche per le questioni amministrative come i trasferimenti. Ci sono celle singole, gruppi isolati di 4 prigionieri per volta, sempre gli stessi 4, che possono vedersi all'aria. L'aria dura un'ora, è vietato parlare, anche solo salutarsi, e non si può tra prigionieri passarsi cibo, libri, eccetera. Per quanto riguarda le relazioni con l'esterno, non si possono ricevere libri, né ai colloqui né con i pacchi, diciamo, con i pacchi postali. Per quanto riguarda i libri, si può solo acquistarli attraverso l'amministrazione penitenziaria, che li deve autorizzare. E c'è solo un colloquio al mese con vetro divisorio e citofono, che può essere sostituito però da una telefonata. E la questione dei libri, ricordiamo che c'è stata la campagna Pagine contro la tortura qualche anno fa, avevamo fatto anche per questa campagna diverse manifestazioni. Poi c'è il discorso del difetto di difesa, in quanto le persone che sono in regime detenute in regime di 41 bis non possono partecipare ai processi in persona, ma li fanno partecipare attraverso la videoconferenza, e non solo ai processi, poi vedremo, ne parleremo anche per un'altra cosa, e questo limita fortemente il diritto della difesa. Tra l'altro, questo discorso della videoconferenza, come tutti i provvedimenti penali, tendono a espandersi, a diventare cronici e ad allargarsi a tutta la popolazione carceraria sempre di più. Questa cosa della videoconferenza viene applicata adesso in maniera veramente abusante per qualsiasi tipo di processo, insomma. Ecco, allora io dicevo che Alfredo Cospito si trovava fino a qualche giorno fa al carcere speciale di Terni, ora è stato trasferito a Bancali Sassari, quindi si trova in 41 bis al carcere di Bancali Sassari. Io ci tengo a darvi l'indirizzo, perché comunque, anche se sarà sottoposto a censura eccetera, ma comunque vista la situazione molto difficile, molto afflittiva, è importante dimostrare di solidarietà, provarci almeno. Allora, per scrivergli, ripeto il suo nome e cognome: Alfredo Cospito, casa circondariale di Sassari, Giovanni Bachiddu, strada provinciale 56 numero 4, località Bancali, 07100 Sassari. Let's go. Allora, ecco, abbiamo ascoltato la band Tear Me Down e durante gli interventi parlati in sottofondo gli Inner Terrestrial. Allora, dicevamo di Alfredo Cospito, il compagno che è stato sottoposto al 41 bis e ora si trova al carcere di Bancali Sassari, trasferito da Terni. Allora, in questo carcere, cioè, c'è un riferimento a questo carcere relativo a un altro prigioniero che è importante, di cui è importante accennare oggi. Si tratta di Alessio Attanasio, che in questo momento è detenuto a Milano Opera, è in 41 bis da 20 anni, è stato a Tolmezzo e lì l'abbiamo conosciuto, non di persona ma per via epistolare, in quanto siamo stati appunto in contatto epistolare con lui, in quanto lui ha fatto emergere molte verità scomode da quel carcere, scrivendo anche con l'aiuto delle sue legali. Allora, Alessio Attanasio aveva già scritto un libro dalla sua condizione appunto di detenuto in 41 bis, che si intitola L'inferno dei regimi differenziati. Allora, il 10 maggio, quindi qualche giorno fa, Alessio Attanasio si è laureato in giurisprudenza in diritto penitenziario con una tesi dal titolo I regimi differenziati nel sistema penitenziario, ottenendo il massimo dei voti e la lode. Allora, al di là del massimo dei voti e della lode, che comunque sono una soddisfazione, ricordiamo che le persone detenute in 41 bis non hanno diritto nemmeno ad avere un tavolo nella cella, per cui anche studiare, insomma, poi studiare diritto non è proprio una cosa semplicissima e diventa molto impegnativo. Lui ha potuto, grazie all'interessamento delle sue legali, ha potuto avere dispense per studiare e si è laureato proprio con l'Università di Sassari, nel senso che tramite il carcere di Bancali Sassari, e qui mi ricollego ad Alfredo, e in videoconferenza, perché anche la discussione della tesi di laurea avviene in videoconferenza, essendo in 41 bis, ha potuto discutere questa tesi e quindi portare a compimento questa cosa. E vabbè, questo è una roba, è una bella notizia, il fatto che un prigioniero dopo 20 anni di vessazioni di ogni tipo e di detenzione appunto in 41 bis riesca ugualmente a non sottomettersi e a mantenere il cervello super sveglio, super reattivo e a continuare imperterrito per la sua strada, è una cosa molto importante. Inoltre rappresenta proprio, per come la vedo io, una cosa importante per tutti noi, cioè il fatto che un prigioniero scriva per filo e per segno di regimi differenziati e quindi vada a decostruire il sistema penitenziario e ad analizzarlo, rappresenta appunto una forma di conoscenza tra oppressi dall'interno che è, secondo me, molto importante. Questa è una buona notizia. E quindi niente, un augurio anche ad Alessio Attanasio di continuare con la sua determinazione, e cercheremo insomma di dare il più possibile spazio anche a questo studio che lui ha portato avanti. E allora, come primo argomento, direi che si può chiudere qui. Sarò stata confusionaria, ma non importa, insomma erano dei primi, così, delle prime riflessioni che però era necessario, secondo me, fare in questo momento. E ascoltiamo ancora un po' di musica e poi passiamo all'altro tema che tratteremo. Je suis Ecco, abbiamo ascoltato qualche pezzo della band La Fraction. Allora, iniziamo a parlare del secondo argomento di questa puntata di Zernis Magnetics. E già puntate precedenti un altro compagno aveva parlato diffusamente dell'argomento sulla libertà di vivere e di morire, come si è vissuti. E oggi proviamo a dare un ulteriore contributo a partire da due fatti così che ci hanno colpiti e che sono successi in queste ultime due settimane, e specificamente un funerale in Palestina di una giornalista e un funerale curdo in Turchia. E poi approfondiremo con altri aspetti. Allora, parliamo intanto dei fatti. Sì, circa due settimane fa è stata ammazzata la giornalista palestinese Abu Akleh, una giornalista palestinese importante, era conosciuta in tutto il mondo arabo, in quanto da decenni ha raccontato la violenza e i crimini dell'occupazione israeliana. Questa donna muore in uno scontro a fuoco e i soldati israeliani sono i sospettati numero uno, cioè, più che i sospettati, sì. Comunque, vengono accusati in qualche maniera. E si tratta della morte di una icona palestinese, possiamo dire. Difatti il suo funerale rappresenta un evento importante, popolare importante. E proprio in quel momento, al culmine del lutto, gli agenti di polizia, armati di bastoni, fanno irruzione nella scena. Avrete visto, io ho guardato in internet i video, è una roba veramente raccapricciante, veramente. Siano maledetti questi agenti di polizia. E, tra l'altro, va detto che il giorno in cui Abu Akleh è morta, i poliziotti sono andati a casa della famiglia in lutto, chiedendo di rimuovere le bandiere palestinesi che sventolavano fuori dalla loro casa, di non fermarsi nella strada e di abbassare il volume della musica diffusa all'esterno. Sì, e inoltre, sempre il giorno del funerale, poco dopo la processione, la polizia è stata ripresa mentre strappava via le bandiere palestinesi dalle auto. Ecco, questa è la situazione, tutte queste cose si possono vedere, non serve vedere per credere, ma comunque si possono anche vedere. E qualche giorno prima, sempre nei territori occupati, un giovane palestinese, Walid al-Sharif, che tre settimane prima aveva lanciato pietre contro la polizia sulla spianata delle moschee ed era stato ferito gravemente alla testa da un proiettile non letale, che però provoca lesioni gravissime o la morte. E la polizia ha dichiarato che le sue ferite erano state causate da una caduta, ma non ha fornito alcuna prova. Allora, parliamo di questa cosa delle armi letali, non letali. Anche su questo ci sarà occasione di approfondire, visto che anche il taser ormai è di casa, viene utilizzato, è già stato utilizzato anche a Udine. Allora, tornando alla Palestina, praticamente la polizia adotta questi proiettili dalla punta di gomma, una tipologia di proiettile dalla punta di gomma nuova, diciamo, rispetto al passato, da 40 mm, che questo proiettile è pensato con lo scopo di infliggere un enorme dolore ed è la principale arma non letale utilizzata dalla polizia. Dal 2014, quando la polizia è passata dai proiettili più leggeri, diciamo sempre con la punta di gomma, a questi qua più pesanti, i casi in cui quest'arma non letale ha causato gravi lesioni e anche la morte sono aumentati. Allora, nelle prime ore del 14 maggio si è verificata una nuova tensione. La polizia si è rifiutata di consegnare il corpo di al-Sharif alla famiglia per la sepoltura, nonostante il ragazzo non fosse in stato d'arresto durante il ricovero in ospedale delle ultime tre settimane. E questo perché il Tribunale di Gerusalemme avrebbe dovuto gestire la richiesta della polizia di effettuare un'autopsia quella sera stessa. Ecco, quindi anche qui un'altra situazione di attacco, diciamo, in questo caso di un corpo morto. di un corpo morto, cioè la sottrazione di un corpo morto, mentre nel caso della giornalista Abu Akleh c'è stato questo attacco al funerale, quindi alle persone che manifestavano per lei. E, noi scrivevamo nel 2016 in un volantino che è stato già citato, ma comunque dicevamo: terrorista è una parola coltre che seppellisce il fenomeno della militanza politica armata in Kurdistan, ma non solo in Kurdistan, in Palestina, un po' ovunque. La vita del terrorista è altra e non assomiglia a noi. Le politiche dello Stato turco, ma anche palestinese, ma anche dello Stato in generale, nei confronti dei loro corpi e dei loro cadaveri quando sono morti, diventano pertanto legittime e invisibili. Poi c'è un altro fatto che è successo sempre in questi giorni: la politica e attivista curda Aysel Doğan è deceduta in esilio in Germania. Il funerale avrebbe dovuto svolgersi sabato 14 maggio a Dersim in Bakur, cioè nel Kurdistan turco, ma la polizia turca ha attaccato la folla che accompagnava il corteo funebre per Aysel con lacrimogeni e idranti, sequestrando in seguito la bara e la salma. Anche di questo, anche questo fatto devastante, ci sono appunto in rete le immagini. Allora, si diceva sempre in questo volantino che avevamo fatto relativo al morire come si è vissuti e ai funerali, all'importanza che anche i funerali diventino momenti di lotta e di rivolta. E, appunto, in Kurdistan i funerali dei combattenti e delle combattenti, ma anche quelli delle civili e dei civili, sono visti dallo Stato turco e dalle forze di polizia come occasione di propaganda terroristica. Così la polizia trafuga i corpi che vengono seppelliti di nascosto e all'insaputa dei familiari. E rispetto a queste cose qua ci dice, ad esempio, ci dice, ci dicono insomma militanti curdi: torturare e violentare i corpi morti, attaccare i funerali, profanare le tombe costituisce una pratica sistematica e non può essere ridotto a patologie individuali degli singoli sbirri. I cadaveri sono resi luoghi di sovranità e queste politiche sono state praticate e perfezionate lungo l'intera storia dello Stato turco, proprio come nella storia di ogni Stato-nazione. E strategia di guerra, una delle strategie di guerra è anche quella di tenere i prigionieri, di tenere prigionieri persino i cadaveri dei combattenti e delle combattenti. E ancora Judith Butler, nella rivendicazione di Antigone, ci diceva: quelle vite che sono contrassegnate come non degne di lutto aprono un percorso allo Stato per cartolarizzare i rituali che sono in relazione al corpo morto dell'altro. Un processo di tortura attraverso la cartolarizzazione, un processo che è rivolto non a un passato di repressione e genocidi con i quali non ci si è mai confrontati, ma al futuro, alla cartolarizzazione, cioè alla trasformazione del lutto e dei suoi rituali in qualcosa il cui significato è contrassegnato come non degno e che viene rivenduto al pubblico mainstream per generare possibili flussi di cassa simbolici. Ecco, in curdo rivolta si dice Sheryl Dance, e appunto loro, i combattenti e le combattenti curde, hanno sempre invitato a rivoltarsi ogni qualvolta c'è un funerale, quindi a considerare il funerale come un momento politico importante. E questi due o tre fatti da cui siamo partiti per questa riflessione, per questo terzo contributo sull'argomento. E un pezzo musicale, poi concludiamo. We'll be right back. questa mafiocrazia, la gente è libera solo di essere d'accordo. E chi voleva capire ha capito, e anche chi ha capito spesso ha preferito può abbassare lo sguardo. Indifferente, attacca un collettivo, le teste intramagite. Io non fai due, sono con noi unite. Tante virolati insieme fanno dinamite. Sono con due, sono con noi unite. Quanto produzione, solidarietà, scambio. Quando è l'aico, la loro guadagno. Fa culo le etichette, noi siamo le nostre vite. Sono con due, sono con noi unite. Questi che abbiamo appena ascoltato erano gli Into the Baobab. Allora, concludiamo questo, così questi spunti sulla libertà di vivere e di morire come si è vissuti e sulla necessità di manifestare la resistenza contro l'oppressione, contro il capitale, contro lo Stato, anche in occasione dei funerali e delle anche in occasione dei funerali, insomma. Allora, in questo periodo mi è capitato di rileggere, insomma, in maniera un po' più approfondita, un libro di Silvia Federici e Leopoldina Fortunati che si intitola Il grande Calibano, storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, un libro molto importante del 1984. Allora, in questo libro praticamente si analizza tutto il percorso di espropriazione, diciamo, che è avvenuto tra il 500 e il 600 e poi si è perfezionato nel 700, espropriazione del corpo, del proprio corpo inflitta al proletariato. E vabbè, poi si parla di tante cose, insomma, anche della stregoneria, cioè nello specifico viene detto che in questo testo che mediante l'attacco alla stregoneria e quindi alla conoscenza della medicina naturale da parte delle donne e del legame mai rescisso, diciamo, soprattutto tra le donne e la natura, attraverso appunto l'attacco alla stregoneria, il proletariato viene proprio espropriato in maniera irreversibile dal proprio corpo, come già lo era stato della terra. Però il grande Calibano è appunto questa figura della tempesta di Shakespeare, una figura mostruosa che rappresenta questo corpo sociale ribelle che si oppone appunto a capitalismo e a Stato, quindi il grande Calibano siamo anche noi, il grande Calibano è anche, siamo tutti noi, insomma, che vorremmo rivoluzionare questo mondo. E questo grande Calibano oppone una canita resistenza verso questo esproprio. Allora, vado a leggervi questo pezzetto del testo, Il grande Calibano, storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, è il capitolo di Silvia Federici. Allora, c'è una canita resistenza proletaria anche di fronte alle esecuzioni. Siamo a Londra all'inizio del Settecento. In occasione di ogni esecuzione si instaurava una vera battaglia, quindi un'esecuzione, una condanna a morte, no? Si instaurava una vera battaglia da parte dei parenti e compagni del morto per impedire che gli scagnozzi dei chirurghi si impadronissero del cadavere allo scopo di adibirlo ai loro studi di anatomia. La battaglia era accanita perché il timore di essere dissezionato non era inferiore a quello della morte stessa. Viveva nel proletariato una concezione magica del corpo che era visto vivo anche nella morte e anzi proprio nella morte arricchito di nuovi poteri. Si credeva che il morto potesse tornare a vendicarsi di chi gli aveva fatto torto e si credeva anche che il corpo del giustiziato avesse particolari virtù curative. Da questo punto di vista la dissezione si presentava come un'ulteriore infamia, una seconda morte, e il condannato spendeva i suoi ultimi giorni ad assicurarsi che il proprio corpo non sarebbe stato abbandonato nelle mani dei chirurghi. Questa battaglia, ricordiamo, avviene ai piedi del patibolo. Questo tutto ciò, ci dice Silvia Federici, dimostra la violenza che è all'origine della razionalizzazione scientifica e lo scontrarsi di due opposte concezioni del corpo. Una concezione che lo rispetta come vivo anche nella morte, la concezione popolare. Un'altra che lo vede già morto anche quando è ancora in vita e che lo pone come congegno meccanico da smontare e da sfruttare. Tutto ciò ci dice anche che il progresso dell'anatomia è dipeso dalle pratiche penali. Vabbè, anche qui, insomma, ci sono tutti i collegamenti anche con relativamente alle riflessioni sulla gestione della salute, la militarizzazione della salute. Per oggi siamo quasi in chiusura. Allora, io vi ricordo di nuovo i nostri contatti, visto che sono stati detti dalla regia all'inizio. E intanto ricordo che Zernis Magnetics è condotto in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, in via Volturno, ogni giovedì dalle 20 alle 21.30. E Zernis Magnetics è mandato avanti dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. E allora, per contattarci, per scriverci, c'è un indirizzo di posta elettronica liberetutti@autistiche.org, oppure anche una casella postale. Dovete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste Centro. E poi c'è anche un blog di questa trasmissione dove potete ascoltare appunto tutte le puntate. Il blog è zardingsmagneticsradio.noblogs.org. E niente, per stasera io vi saluto. Non l'ho fatto finora, nella speranza che sempre ci sia qualcuno che da luoghi di detenzione, sia carcere ma anche da luoghi di detenzione domiciliare, ad esempio, o da reparti ospedalieri, eccetera, possa avere l'occasione di ascoltarci. E certe volte si dà per scontato, ma invece no, è bene dirlo, ricordarlo. Poi oggi in particolar modo ricordiamo come componenti del grande Calibano in resistenza, che mandiamo un grande saluto a tutti e un grande abbraccio a tutte le persone che si trovano in situazione di privazione della libertà. Mandi, alla prossima.